Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benedetti batteri killer, ma ci sarà pure un modo per fermarli prima. Ne parliamo fra poco, fra pochi secondi. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi iniziamo. Qualche buona tecnica per annientare la diffusione dei batteri killer è oggi disponibile. Arriva dal Politecnico di Milano. La domanda impossibile di questa settimana ci arriva da Alessandro Bergonzoni. Anzi, sono tre le domande. E l'ultima è: perché? Risponderà un filosofo. Al Festival dell'Economia di Trento si è anche discusso di mercato dei corpi. E il problema che si apre è molto complesso. I cuculi africani si chiamano beccamoschini, occupano abusivamente i nidi altrui e ci lasciano le uova. Ma le vittime in Africa si sono fatte furbe. Non vi dirò certo come funziona, non vi parleremo di questo, il batterio killer. Immagino che dopo due settimane di pagine intere sui quotidiani, di telegiornali che ad ogni edizione hanno delle notizie che riguardano il batterio killer, siate diventati ormai degli esperti in Escherichia coli. Il problema invece è adesso capire, ed è su questo che Möbius vi invita a riflettere, vuol darvi delle informazioni e capire se si può fare qualcosa a priori. E per capire questo, cominciamo oggi, lo faremo anche in altre puntate, con diverse tecniche, insomma, che ci sono e che possono eliminare il problema di questi batteri killer, quelli dannosi. Per aiutarci in questo primo passo è in onda con noi Alberto Cigada. Buonasera Cigada. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Docente al Politecnico di Milano, fa ricerca sui biomateriali e interazione con l'ambiente biologico, e quindi ci siamo. L'accogliamo in transito in un aeroporto spagnolo, se non sbagliamo, Barcellona. Esattamente, ma nessun problema, esatto. Spagna, da cui è nata la prima vicenda puramente mediatica e informativa, perché poi abbiamo capito che invece non c'entravano i cetrioli spagnoli, poi si è passati alla soia, adesso non si riesce a capire da dove possa essere partito, forse da un ristorante di Amburgo. Insomma, quello che stiamo misurando, Cigada, è che effettivamente, e qui non ci sono molte critiche da fare, non so se lei è d'accordo, quando si deve intervenire a valle, cioè a guaio avvenuto, non può che andare così, è molto difficile, no? Dopo capire che cosa si può fare e cercare di fermare le cose. Assolutamente è molto difficile, le strade che possono essere intraprese devono essere programmate, preparate per tempo, e una soluzione immediata è davvero molto difficile. No, non la si trova. Ecco, invece con lei riflettiamo, perché voi lì al Politecnico di Milano avete messo a punto una tecnologia interessante, riflettiamo sulla possibilità di prevenire questi guai, perché i batteri possono arrivare da tutte le parti. Voi avete individuato qualcosa che funziona per una delle sorgenti, tra l'altro tra le più pericolose forse di batteri. Sì, esattamente. Mi lasci partire da una considerazione. Sì. Anche se tutti noi stiamo prestando attenzione al problema in questo momento, in realtà il problema della contaminazione, dell'infezione batterica è un problema molto più grave di quello che sembra. Sì. Basti dare un numero semplice, si stima che ogni anno in Italia contraggano infezione batterica negli ospedali 700.000 persone. Sì. E ci siano circa 15.000 morti all'anno solo in Italia per infezione batterica. Certo. Evidentemente la maggior parte di questi avviene durante interventi operatori e quant'altro, però non c'è alcun dubbio che il problema del controllo della carica batterica presente negli ambienti, ospedali, scuole, treni, camere d'albergo, eccetera, eccetera, sia un problema rilevante. E una delle possibilità che ci viene incontro per cercare di arginare questo problema è quello di mettere in atto dei trattamenti di depurazione dell'aria nei locali pubblici, nei mezzi di trasporto, eccetera, per ridurre in modo importante la presenza di batteri, che comunque sicuramente avremo, perché il numero di batteri presenti nell'aria in qualsiasi locale è comunque molto elevato. Quindi lei sta pensando a tutte quelle situazioni, dai treni, dai metro condizionati, anche agli aerei, ai treni su cui si viaggia ormai in lungo e in largo, per esempio nel nostro paese, pensa a queste, certo. Sì, soprattutto laddove non c'è una continua entrata e uscita delle persone. Questo intervento è facile farlo su un Frecciarossa Milano-Roma, molto più difficile su una metropolitana Lambrate Loreto, perché la quantità di persone che salgono e scendono è molto maggiore. Certo. In ogni caso, partiamo da una considerazione abbastanza nota. Credo che tutti sanno che oggi esistono già dei filtri in grado di bloccare una quantità quasi totale dei batteri, sono i cosiddetti filtri EPA o i cosiddetti filtri ULPA, che sono normalmente utilizzate in quelle che si chiamano camere bianche o anche in moltissime camere operatorie degli ospedali. Il problema è che questi filtri hanno un'alta perdita di carico pressorio. Che cosa vuol dire? Che per poter far circolare l'aria devo dare delle potenze molto forti alle pompe che spingono l'aria e conseguentemente anche un grande rumore. Pertanto questo tipo di interventi possono essere fatti nelle situazioni che dicevo, ma non possono essere fatte nei normali sistemi di ricircolo dell'aria, riscaldamento, raffreddamento, ricircolo ormai diffuso in quasi tutti gli edifici. Allora l'obiettivo della ricerca può essere, deve essere, in questo noi crediamo che si stia ottenendo risultati molto interessanti, di sviluppare dei filtri che abbiano un'alta capacità di trattenere i batteri e magari essere anche battericidi, in modo tale che i batteri non vengano solo fermati meccanicamente ma siano anche poi eliminati, con dei filtri che abbiano viceversa quella che gli ingegneri chiamano una bassa perdita di carico, che vuol dire possibilità di essere inseriti nelle normali bocchette che tutti noi magari abbiamo in casa nostra o troviamo in giro, utilizzando dei sistemi comunque silenziosi, perché evidentemente se il rumore diventa troppo forte non è pensabile, non è gestibile, certo. Pensiamo alla cappa di una cucina, non potremmo vivere tutto il giorno con una cappa di una cucina che funziona. No. E quindi questo sistema che voi avete progettato, poi ce ne sono anche altre. Chiedo, è qualcosa, come dire, potrebbe già entrare in produzione, per dirla semplicemente? Domani dovremmo depositare il brevetto. Io credo che in tempi brevi si possano, abbiamo già contatti con aziende interessate a sviluppare la cosa, penso a tempi brevi. Vorrei anche sollevare un altro punto che io credo sia importante, su cui è opportuno riflettere. Credo che in una situazione in cui comunque la globalizzazione porterà a una maggior facilità di diffusione dei batteri che si saranno evoluti in modo più aggressivo, eccetera, si possa ragionare. Intervenire cioè sulla logistica di distribuzione della grande distribuzione, introducendo dei trattamenti di sterilizzazione. Tecnologicamente non è un problema. Sicuramente c'è un problema di logistica, ma questo deve essere affrontato per tempo, e sicuramente c'è un problema di valutare qual è la dose ottimale di questi trattamenti per non influire sulle proprietà organolettiche degli alimenti che poi mangiamo. Beh, insomma, Cicada, per banco mi pare che se ci diamo una mossa qualcosa di interessante si possa combinare. Io la ringrazio e buon lavoro, e attendiamo i suoi filtri. E grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci qua, c'è il quiz, naturalmente. Si iniziò a navigare migliaia di anni fa, ma come si adoperò l'umanità marinara per capire dove la nave si trovava lì nell'immenso mare? Con l'individuazione della latitudine e della longitudine, ovviamente. Ma come furono scoperte? Ecco le tre possibili risposte. Prima la latitudine, scriverete latitudine. Prima la longitudine, scriverete longitudine. Tutte e due insieme, naturalmente, è l'ultima possibile risposta, perché il punto si fa appunto con due dati. E ci scriverete due, dove? Al 349-238-6666 con un SMS. Il libro che si vince questa settimana è La vita inaspettata, il fascino di un'evoluzione che non ci aveva previsto. L'autore è Telmo Pievani, edito da Raffaello Cortina. In una delle prossime puntate parleremo di questo libro. In collaborazione con IBS.it. Beh, tra le tante domande che abbiamo ricevuto fino adesso, altre che abbiamo e che non abbiamo ancora, come dire, risolto, questa è forse quella al momento più complessa, più rotonda, più profonda, Chiara. Sì, in effetti è quella che ha un contenuto, oltre che scientifico, anche molto filosofica. Infatti viene da un personaggio molto eclettico, uno scrittore, un comico, un pensatore, forse anche un e po' filosofo anche unico, lui. Ecco, l'abbiamo incontrato alla Fiera del Libro di Torino e sentite che cosa ci ha chiesto. Salone del Libro di Torino, Alessandro Bergonzoni in coda per mangiare la pizza. Ha una domanda per noi, forse. Sì, perché la scienza è sicura delle cose solo se le dimostra? Questa però è una domanda difficile. La vuoi più facile? Perché la scienza? Ancora più facile? Perché? Come dice Alberto, sono veramente tre domande, una più difficile dell'altra. La cosa curiosa è che, dicendo la vuoi più facile, lui è andato in realtà verso quella più difficile in assoluto. Vedo che qua in studio con noi Armando Massaretti annuisce. Abbiamo dovuto chiamare un vero filosofo per sbrogliare il tutto. Allora, Armando Massaretti, filosofo, ogni tanto arrivi qua in trasmissione perché sei anche un collega, curi da tempo le pagine di filosofia e scienza del Domenicale, adesso sei anche responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, dopo diremo qualcosa di curioso su quello che sta per arrivare. Allora, Armando, qua è il contrario, sciogli, esattamente. Sciogli. Sono tutte e tre difficili. Sono tutte e tre difficili, ma forse tra l'altro accorciandola diventa anche più pregnante, nel senso che la prima c'ha un margine di imprecisione, nel senso, a parte uno dice se la scienza è sicura solo se dimostra le cose, dici poco, cioè nel senso che dimostrare qualche cosa non è affatto semplice, dimostrarlo con certezza è la cosa più difficile, ma è poi il nucleo di un certo modo, di una certa parte della scienza, che poi è la matematica, la logica, insomma, cioè è laddove noi davvero otteniamo delle certezze, cioè otteniamo delle dimostrazioni di teoremi che valgono, verrebbe da dire, per l'eternità, cioè una volta dimostrato il teorema di Euclide, quello vale sempre, ecco, certo. Cioè, entro certe condizioni ovviamente, perché poi l'aspetto delle ipotesi di contorno è un aspetto molto importante nella scienza. Però, diceva Galileo, giustamente ci sono le certe dimostrazioni ma anche le sensate esperienze, allora tutta una parte della scienza riguarda l'esperienza, cioè la possibilità di fare delle ipotesi interessanti e di verificarle, e in questo verificarle in realtà poi si è scoperto, ma fin da Bacone, senza neanche parlare di Popper, fin Bacone aveva capito che in fondo è più il nostro ragionare per prove ed errori, Bacone nel senso del grande fondatore della scienza empirica moderna, che conta, cioè quindi l'esperienza, noi continuamente cerchiamo attraverso l'esperienza di capire come stanno le cose e spesso troviamo delle grandi confutazioni da parte dell'esperienza, e questo però è proprio questo il meccanismo fa andare avanti la scienza. Però è un po' vero che la scienza si basa proprio sulle dimostrazioni, cioè se un ricercatore dimostra qualcosa attraverso un articolo scientifico e lo pubblica, allora quello diventa scienza, il resto forse rimane un po' a margine. Sì, qui usiamo il termine dimostrazione in un modo un po' più vago, cioè nel senso della prova continua entro una comunità di esperti che peraltro il bello della scienza è proprio questo, cioè il fatto che induce ad un sapere critico e ci mette subito in qualche modo tra virgolette alla berlina, nel senso che uno dice vedete io ho scoperto questo, e poi in tutto il mondo tutti coloro che pensano di saperne sanno anche che possono fare delle critiche feroci, e questo è un aspetto, quindi dimostrare, io lo userei in questo senso un po' più dimostrare in questo caso diventa il dimostrare ad una comunità di eguali, ad una comunità di pari, quindi il dimostrare sì, può avere delle sfumature semantiche, ovviamente Bergonzoni è un po' matto, quindi... che è un po' matto, simpaticamente matto, e però sa porre queste domande nella maniera, in fondo è giusto anche che sia una maniera ingenua, no? Perché poi la scienza deve prendere conto anche ad una società più ampia e magari quindi avere l'occasione, come stiamo facendo in questo momento, di specificare meglio che cosa di fa. Di confrontarsi con altri due. Siccome appunto lui è matto, dice a un certo momento, la vuoi più semplice, perché la scienza, che in realtà è molto più complesso. È molto più complicata perché in effetti è abbastanza misterioso questo fatto incredibile, straordinario, che un animale, quale l'uomo è, a un certo punto si sia messo in questa avventura della conoscenza, perché non è per niente naturale. Cioè noi ancora oggi, quando diciamo che il sole sorge, diciamo una cosa antiscientifica, però diciamo una cosa che riguarda una sorta di scienza ingenua, ci sono tutte queste, anzi oggi sono state anche addirittura studiate nei loro meccanismi più sottili, proprio il nostro modo di percepire la realtà quotidiana, che non è completamente antiscientifica, però in realtà è basata su tutta una serie di pregiudizi e di errori anche cognitivi che in realtà ci sono utili nella vita quotidiana, di cui appunto la difficoltà di invece astrarre ed arrivare a delle verità che nella vita quotidiana non ci servono a nulla, ma che in realtà ci dicono esattamente come stanno le cose, per esempio come è fatto l'universo, come è fatta la materia nelle sue parti più piccole. Nasce un po' tutto dal voler comunque dimostrare delle cose, dei fenomeni che noi osserviamo e che curiosamente ci chiediamo il perché, proprio come dice Bergonzoni. Perché questa è l'ulteriore domanda, perché la scienza era quella a cui abbiamo risposto prima, perché è ancora più sottile e questo davvero è universale. E perché, qui nasce tutto, diciamo. Eh sì, perché questo fa parte proprio della nostra natura umana. Vi racconto un episodio, un piccolo esperimento che conoscerete già, uno psicologo di Harvard, non ricordo se era un uomo o una donna, comunque un esperimento famoso degli anni 70, spiegava come funziona la parola perché nella nostra vita quotidiana. L'esperimento era così, c'era una fila per fare delle fotocopie, esattamente come Bergonzoni era lì in coda per andare a prendere la pizza. E se uno andava lì e diceva, adduceva delle motivazioni per passare davanti nella coda, c'erano delle diverse percentuali di persone che dicevano no, guardi, si metta in coda, eccetera. E allora uno poteva dire, sa, ho fretta, devo fare queste fotocopie, dice, guarda, ho fretta anch'io, mi dispiace, no? eccetera. Poi a un certo punto aggiungeva la parola perché, le percentuali si alzavano moltissimo, al punto che alla semplice frase ma perché vuole passare davanti, perché devo fare delle fotocopie, rispetto ad altre frasi più motivate in cui era più chiaro che aveva fretta, funzionavano molto di più. Erano più efficaci. Cioè, la parola perché in quell'esperimento fa capire che noi siamo portati a cercare continuamente delle motivazioni che poi nella scienza diventano cause vere e proprie, però questo è fondamentale. Cioè, se uno dice perché, in qualche modo ha un buon motivo. Diciamo che sì, se uno usa proprio la parola perché, ha più probabilità di convincere l'altro. Bene, una garanzia per gli uffici postali, abbiamo dato da usare in maniere proprie. Proprie, sì. Non sono e solo come arma finale. In alcune situazioni credo che si siano accapigliati. Grazie Armando, ci piace ricordarle che sul domenicale di questa settimana c'è una roba abbastanza interessante, perché è stato scoperto un nuovo Caravaggio, cosa non da poco, e il domenicale entra anche nel merito, e ci siamo un po' nelle cose che abbiamo discusso, su come si fa a essere sicuri che un Caravaggio sia un Caravaggio. Insomma, ci sono delle technicalities che spiegherete. Ecco, no, io sono ben felice tra l'altro di inaugurare questa mia direzione del supplemento della domenica con un fatto così importante, cioè la scoperta di un Caravaggio, ma la cosa che ancora mi piace di più è il fatto che riusciamo a motivare molto bene perché, al contrario di tante altre bufale che abbiamo visto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, tra l'altro non so, per esempio le ossa del Caravaggio, il crocifisso di Michelangelo, noi possiamo spiegare molto bene e quindi anche mostrare il metodo. In questo caso in parte anche un aspetto scientifico nelle prove che noi adduciamo, ma sono prove anche di carattere filologico. Insomma, noi dobbiamo renderci conto che, tornando anche alla prima domanda di Bergonzoni, che la certezza o la ragionevole certezza o la maggiore probabilità di una certa conoscenza riguarda dei metodi che sono abbastanza compositi e che comunque anche nelle scienze umane, anche nella storia dell'arte, noi raggiungiamo più gradi più o meno alti di certezza. Certo. E bisogna, la cosa bella nella cultura, nel far vedere anche come in fondo la scienza è parte integrante della cultura e si intreccia molto bene anche con la cultura umanistica, è bello appunto far vedere anche i metodi, cioè i modi in cui noi possiamo dimostrare che certe cose sono più vere di altre. Grazie Armando. E in bocca al lupo per la nuova esperienza. Crepi il lupo. E noi invece ricordiamo agli ascoltatori che volessero porre le domande impossibili, come ha fatto Alessandro Bergonzoni, possono scriverci all'indirizzo email mebius@radio24.it oppure attraverso Facebook, attraverso il nostro profilo Mebius Scienza. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Al Festival dell'Economia di Trento un seminario la scorsa settimana si è occupato di mercato dei corpi. seminario che aveva al suo centro l'incontro con una filosofa americana, Margaret Jane Radin, e mi faccio aiutare per commentare questo appuntamento da Francesca Bettio. Buonasera Francesca Bettio. Buonasera. Docente di economia all'Università di Siena, coordinatore rete esperte sul mercato del lavoro femminile della Comunità Europea, e poi lei fa anche parte della redazione di In Genere, che è un sito, che è un magazine online che si interessa di economia e società da una prospettiva di genere. Bettio, brevemente, chi è Margaret Jane Radin? Allora, Margaret Jane Radin è una nota studiosa di legge, professore emerito alla Michigan Law School, ma ha insegnato a Harvard. Certo. È una studiosa molto eminente, un po' a cavallo fra una filosofa appunto e una studiosa di legge. Mm-hmm. Incarna entrambe queste figure. Alla sua invece contributo scientifico, diciamo che da molti anni, almeno dall'inizio degli anni 90, si occupa proprio di questa problematica che ha una domanda precisa. Che limiti dobbiamo porre ai mercati dove avvengono transizioni su parti del corpo o addirittura su servizi del corpo, come nel caso della prostituzione, o addirittura ai mercati dei corpi stessi. Sentiamo Bettio un passaggio rapidissimo che ci introduce esattamente in questa cosa che lei stava sottolineando. Sentiamo a Margaret Reading. E qui lei sta dicendo che negli Stati Uniti i giornali universitari pubblicano spesso annunci con offerte di grosse somme di denaro in cambio di ovuli di giovani donne che siano in possesso di determinate qualità atletiche o intellettuali. Lei si ricorderà, Bettio, che lì si faceva anche una considerazione di questo genere: una ragazza brava che vuole fare un'università, ma una di queste università che costano molto, può pensare di vendere un ovulo ogni anno, qualcheduno, e recuperare qualche migliaio di dollari che le possono consentire di fare gli studi. Ho pensato di iniziare con questa cosa perché insomma pone con molta forza, con grande enfasi questo tema, no? Certo, è una cosa che colpisce l'immaginario, soprattutto da noi in cui non esistono queste realtà, o almeno io non ne sono a conoscenza. No, direi che non le abbiamo. Direi che non abbiamo campus simili. Dunque, c'è un articolo di una bravissima sociologa, Yasmin Erges, sul sito ingenere.it, pubblicato circa un anno fa, che racconta più in dettaglio queste storie. Ed è il caso di dare qualche dettaglio. Yasmin Erges insegna alla Columbia, Columbia è una di queste università ovviamente top, le Ivy League come le chiamano, e racconta che all'inizio dell'anno accademico il campus abbonda di annunci pubblicitari in cui le ragazze vengono incoraggiate, le studentesse naturalmente, vengono incoraggiate a, per così dire, metto le virgolette, a donare i propri ovociti a qualche povera donna, che povera nel senso sfortunata, donna che non è fertile ma che desidera diventare madre. Allora, con questa retorica, perché poi di retorica del dono si tratta, in realtà vengono incentivate, poi avvengono delle transazioni che sono piuttosto favorevoli per le ragazze. Possono essere, diciamo, favorevoli data la condizione, cioè la vendita di ovociti, un episodio di vendita può anche costare $8,000. Cioè una bella fetta. Costare $8,000 non sono moltissimi rispetto alle $50,000 di un costo, diciamo che è il costo medio per un anno alla Columbia, ma sono un grosso aiuto per alcune ragazze della classe media, ma non della classe agiatissima in qualche maniera. Sentiamo un altro passaggio, questo magari un po' meno eclatante, però insomma con una sostanza molto forte. Sentiamo. Michael Walzer wrote a book maybe 20-30 years ago, it's called Spheres of Justice, Ecco, qui Margaret Reddy racconta, riferendosi a un libro di Michael Walzer, Sfere di giustizia, dove lui parla della vendita di pezzi di corpo, in particolare la vendita di reni, no? Che avviene in un mondo reale pervaso di disperazione a causa della povertà. E qui la Reddy, si ricorda Bettio, si interroga su questo fatto, cioè come possiamo confrontarci, lei dice, con l'idea che una disperata condizione economica spinga qualcuno a pensare che vendere un rene sia meglio che rinunciare a ciò che altrimenti non si potrebbe permettere di comprare. Cioè, con la vendita del rene riesce a fare delle cose che, se invece non vendesse questa parte del suo corpo, beh, sono cose estremamente importanti, sfamare i propri figli. E lei dice: io qua ho un po' il problema di chi, in condizioni molto diverse, molto agiate, si permette di giudicare comportamenti di questo genere. Il problema effettivamente è bello intricato. È molto intricato, anche se in questo caso, cioè nel caso della vendita degli organi, in un certo senso la Radin lo risolve, sempre fra virgolette, in maniera più facile che nel caso di altri mercati, di altri pezzi del corpo, in particolare del mercato della riproduzione, per così dire. Allora, le posizioni in campo per quanto riguarda la vendita di organi sono sostanzialmente tre. Quella che risale alla posizione diciamo degli economisti ultraliberali, la scuola di Chicago, che è per il mercato sempre e dovunque, a meno che non ci siano limiti evidenti che gli economisti chiamano esternalità, cioè fallimenti del mercato in sostanza. Poi a questa si contrappone dal lato opposto una posizione completamente abolizionista: non deve esistere mercato degli organi, punto. E c'è invece una posizione mediana, che è quella che la Radin e altri chiamano realista, che dice: bene, sì, in un mondo ideale potremmo pensare che la vendita degli organi dovrebbe non esistere, ma in un mondo reale ci sono enormi disparità di ricchezza, e queste disparità di ricchezza fanno sì che qualcuno in qualche modo non abbia altre opzioni che una vendita disperata di parte di sé per sfamare se stesso o i propri figli. Allora, di fronte a questo, dice la Radin, la posizione abolizionista magari di chi è ricco e non fa nulla per, come dire, raddrizzare le disparità che esistono nel proprio paese o nella propria terra, o comunque può far poco, beh, in una posizione di questo genere, lei dice, è ipocrita, è difficile non concordare. È difficile non concordare. Allora, il problema è che posizione prendiamo? Allora, la posizione della Radin è questa, ma forse in questo mondo non ideale la cosa migliore è ammettere il mercato, ma pensare a una regolamentazione molto efficace, perché in realtà molto più che diciamo le remore morali che possiamo avere alla esistenza di questo mercato, quello che veramente è una minaccia è l'esistenza di intermediari che magari fanno sì che tutti i proventi vadano agli intermediari e non a chi compie una vendita disperata. Certo, certo. Quindi occorre avere un mercato che risolva la minaccia, che è molto forte in questo caso, di un certo tipo di intermediazione. E quindi la Radin pensa a un qualche tipo di agenzia, lei è una filosofa e quindi non si sbilancia pubblico o privato, ma pensa sostanzialmente a un qualche tipo di organismo che dia una garanzia che poi chi vende in condizioni disperate quantomeno possa avere i frutti della propria vendita. L'obiettivo di questa conversazione, certamente, Francesca Bettio, è molto lontano dal pensare di poter risolvere queste cose. Volevamo soltanto dare, come dire, l'intensità di questo dibattito, che certamente affronta problemi nei quali bisogna entrare con molta cautela e molta capacità, molta profondità. A un certo momento dal pubblico, per esempio, si diceva: va bene, noi stiamo parlando delle persone che vendono pezzi di corpo, dovremmo anche parlare per esempio di uno che poi da piccolo diventa grande e gli dico che nasce da un ovulo venduto, no? Sul mercato dei corpi. si aprono, direi, veramente un'infinità di considerazioni. Noi vorremmo anche rimandare al sito www.ingenere.it, che proprio in questi giorni sta pubblicando l'intervento globale della Radine. Poi immagino che discuterete molto di queste cose. Ritorneremo senz'altro su questi argomenti, perché sono veramente infiniti, no? Cosa pensa Bettio? Sono assolutamente affascinanti, oltre che inquietanti, naturalmente. Sono al contempo affascinanti ed inquietanti. Il tema del, diciamo, il caso di un bambino che si ritrova appunto a sapere da grande quanto è costato e quindi quanto vale, è uno dei casi ovviamente più dibattuti e di nuovo un caso che colpisce l'immaginario. Allora, è proprio, diciamo, che la domanda che ci si pone in questi dibattiti di fronte a questa eventualità è: ma il sapere quanto si vale sul mercato e quanto si vale può essere, per esempio, misurato sempre sul mercato dal fatto che i genitori adottivi, per avere quel bambino, i genitori adottivi nel senso di clienti, no, che hanno commissionato magari una gravidanza, bene, hanno pagato per questa gravidanza, che ne so, teniamo più di una Panda ma meno di una Ferrari. Allora, sapere che il proprio valore è stato in qualche maniera valutato, misurato a un certo punto fra una Panda e una Ferrari, non previene quello che la Radin, da filosofa in questo caso, dice: il pieno sviluppo della personalità del bambino, cioè il suo crescere con la piena consapevolezza che è un essere umano che ha diritto ad un valore incommensurabile e non misurabile in qualche maniera. Grazie Francesca Bettio, ricordo ancora www.ingenere.it per tutto questo dibattito. Grazie. Arrivederci e spero che abbiamo altre occasioni per discutere di questi temi che sono molto molto importanti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ti ritrovo ancora qui, Chiara? Sì, dalla filosofia a? Da una domanda impressionante con cui siamo iniziati. Posso fare una domanda? Adesso la faccio subito, una domanda invece tremendamente semplice. Intanto presento Barbara Gallavotti. Ciao Federico, buonasera a tutti. E Alessandro Montemaggiori, ornitologo. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Buonasera. Allora, la domanda tremenda che vorrei fare. Parliamo di cuculi, no? Ma i cuculi sono, non vorrei sbagliarmi, non sono quelli che fanno cucù. Facciamo rispondere l'ornitologo, direi di sì. Sì, sono esattamente quelli che fanno cucù invece. Ah, sono loro. Sono proprio loro. Noi abbiamo incominciato la trasmissione con una domanda sul perché la scienza, perché addirittura in generale, questa mi rendo conto che è una domandina molto più, però fondamentale, un po' più banale. Perché parliamo di, ecco, allora di che cosa parliamo? Barbara, introducila. Parliamo di uno studio che è stato fatto all'Università di Cambridge che torna sull'argomento di cui abbiamo già parlato, la lotta fra un uccellino che si chiama tessitore parassita e un altro che si chiama becca moschino africano. È un eterno confronto ed è la versione africana di quella battaglia che in Italia vede opporsi, nei nidi europei vede opporsi i cuculi a diverse altre specie che vengono parassitate. Insomma, il punto è sempre questo: ci sono degli uccelli che depongono le uova in nidi altrui e ingannano gli ospiti malcapitati, che quindi si trovano a nutrire degli uccellini che non sono i loro piccoli. Ora, in Africa le vittime potenziali, a quanto emerge dallo studio inglese, dispongono di armi di difesa che sono veramente molto sofisticate. Infatti depongono uova difficilissime da imitare e di conseguenza spesso riescono a individuare ed eliminare quelle che non sono loro. Quindi io vorrei chiedere ad Alessandro Montemaggiori subito di raccontarci lo studio di Cambridge. Sì, allora, lo studio è stato condotto in Zambia e, come dicevate voi, in studio ha per rattori il tessitore parassita e una serie di beccamoschini africani che hanno sviluppato una serie di strategie diverse per accorgersi che le uova del parassita sono state deposte nei loro nidi. E le strategie sono di diversa natura, perché c'è una specie, la Prinia dai fianchi fulvi, che depone uova molto diverse a livello individuale, sia nel colore che nella struttura delle macchie, e quindi rende difficile, se non impossibile, l'imitazione da parte del parassita. C'è invece un'altra specie, la cisticola faccia rossa, che invece non depone uova così sofisticate e uniche, ma è in grado di riconoscere anche la minima differenza di colore e sfumatura tra le sue e quelle di un eventuale parassita, grazie anche ai quattro tipi di coni che hanno questi animali sulla retina dell'occhio, a differenza di noi che ne abbiamo per esempio solo tre. C'è infine una terza specie, che è la cisticola chignana, che invece adotta entrambe le strategie e proprio per questo non è una specie parassitata dal tessitore parassita. Insomma, è un esempio splendido di coevoluzione adattativa. E sembra proprio che il parassita abbia ben poche speranze in una situazione del genere. Appunto. Beh, in realtà non è così, perché bisogna tenere presente che il comportamento di parassita ha un vantaggio duplice dal punto di vista di sviluppo evolutivo. Intanto poter deporre più uova in più nidi e in questo modo quindi minimizzare il rischio di perdere la prole nel caso di uno dei nidi, che uno dei nidi venga predato, per esempio. E l'altro enorme vantaggio per un uccello è evitare il grosso e defaticante investimento della cova e dell'allevamento dei piccoli. Quindi anche se solo parte della prole, diciamo, riesce a sopravvivere, è comunque un successo. E poi bisogna dire che effettivamente se si supera questa prova dell'uovo e se il nidiaceo riesce a nascere, poi la strada è piuttosto in discesa. Esatto, è in discesa perché negli uccelli lo stimolo di un becco aperto è irresistibile per un genitore che spesso addirittura imbocca piccoli che non sono neanche suoi quando li trova a fauci spalancate, per cui quando il piccolo parassita nasce gli basta aprire il becco per essere nutrito. Ecco, io ora ho una domanda per l'ornitologo. Senta Montemaggiori, ma questo è quello che succede in Africa con le specie africane. Qui con i nostri cuculi europei come siamo messi? Anche le nostre specie si sono un po' fatte furbe. Diciamo che da noi abbiamo solo due esempi di parassiti simili al tessitore parassita, e sono il cuculo comune e il cuculo dal ciuffo. E sono entrambe specie piuttosto grandi, solo che il cuculo comune parassita generalmente piccoli uccellini, passeriformi sostanzialmente, fino a 50 diverse, mentre il cuculo dal ciuffo è un parassita specializzato nel deporre le uova nei nidi di gazza. Ecco, e le gazze e questi passeri non hanno ancora sviluppato queste strategie di cui ci raccontava finora? No, perché generalmente le uova di questi uccelli, cioè dei parassitati, sono generalmente monocromatiche, quindi di facile imitazione da parte del parassita. Inoltre, per sostituire le uova dell'ospite con le proprie, senza che questo se ne accorga, i cuculi ricorrono anche a un camuffamento vero e proprio, infatti assomigliano moltissimo, sia nel piumaggio che nel tipo di volo, allo sparviero, che è un temutissimo predatore per gli ospiti, ovviamente. Appena questi li vedono, li confondono con uno sparviere, abbandonano momentaneamente il nido e lasciano il tempo al parassita di sostituire le uova con quelle proprie. E poi dopo la schiusa cosa succede? Dopo la schiusa avviene qualcosa che ai nostri occhi può sembrare molto crudele in realtà, cioè il pulcino di cuculo, per esempio nel cuculo comune, nasce un paio di giorni prima dei fratellastri geneticamente e istintivamente butta fuori dal nido tutto quello con cui la sua schiena viene a contatto, per cui le altre uova ai piccoli. È una questione però di sopravvivenza, poiché siccome il parassita è di dimensioni molto maggiori dei genitori adottivi, può pesare fino a 10 volte più di loro, per crescere ha bisogno di tutto il cibo che questi sono in grado di portargli, e quindi non può permettersi di avere come competitori i fratellastri. Non si è sviluppato nessun caso, Montemaggiori, di un uccellino che appena ha il suo piccolo che è uscito dall'uovo lo prende magari con delicatezza, come sanno fare gli animali, e lo porta così nel nido, visto che lì a quanto pare lei ci diceva basta aprire il becco e si è nutriti. No, non esiste niente di questo genere finora. No, perché il genitore nel momento in cui gli si schiudono le uova considera come propria prole quella che lui ha covato. Certo. Infatti, quello è un suo figlio. Diciamo che l'istinto di cura parentale dei genitori è un istinto fortissimo, per cui realmente addirittura nel cuculo dal ciuffo, che non ha bisogno di uccidere necessariamente i piccoli al momento della nascita, perché i piccoli sono grandi come lui sostanzialmente, quello che è proprio il colore dell'interno del becco, per cui il cuculo del ciuffo ha un becco molto più colorato dei fratellastri e in questo modo ottiene più cibo sostanzialmente. Questo che vuol dire? Vuol dire che non necessariamente i fratellastri andranno a morire se c'è molto cibo, ma se ce n'è poco, chi sopravvive è sicuramente il cuculo del ciuffo, perché è quello che viene alimentato. E poi il parassita non vuol covare. Assolutamente, il parassita lo fa per evitare proprio di covare e di allevare la prole. Beh, scusami, certo, una strategia furba. Dall'inizio. Grazie Montemaggiori, buon lavoro. Grazie, grazie agli ascoltatori. Ciao Barbara, ricordiamo che sul nostro sito www.moebiusonline.eu ci sarà, in merito a questa notizia, in merito a questo servizio, anche un riferimento. Un bel video esplicativo su quello che succede nei nidi. In realtà è un brevissimo filmato, ma è piuttosto impressionante, devo dire. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate latitudine e longitudine fondamentali per navigare? Quale è stata scoperta prima, oppure se sono state scoperte tutte e due insieme? E beh, insomma, quando navigate sul mare e puntate una stellina di notte che sta all'orizzonte, magari una spanna poco più dell'orizzonte, e beh, voi immaginate a quel punto di andare, se siete sull'equatore, di andare verso nord, e beh, quella stellina andrà sempre più giù fino a scomparire. E quindi la latitudine era una cosa che si poteva assolutamente utilizzare fin dagli inizi. Invece la longitudine fu un problema ben più complesso, perché bisogna capire, partendo per esempio dal Portogallo e andando verso le Americhe, dove ci si trova in questo spostamento, e qui non c'era altro da fare che avere qualcosa che contasse il tempo. E fino al 1700, verso la seconda metà del 1700, quando fu inventato un orologio che potesse stare su una nave senza dare i numeri, no, perché gli orologi con i loro pendoli normali come c'erano prima, beh, voi immaginate con tutto il movimento della nave come potesse funzionare, e invece a un certo momento arrivò un orologio compatto e si poté calcolare il tempo di navigazione. E quindi è la latitudine che è stata scoperta per prima, la longitudine è arrivata molto dopo. Una foresta cablata, potremmo definirla così. Spieghiamola subito meglio. Oggi sono disponibili dei sensori che possono essere distribuiti con estrema facilità in molti ambienti. Sono dispositivi piccoli con grande autonomia di funzionamento, possono alimentarsi facilmente di energia solare, per esempio, e con una elettronica miniaturizzata è possibile collocarli ovunque in modo non invasivo. Poi qua e là si può anche collocare qualche apparecchiatura, sempre non troppo grande, che raccoglie e distribuisce i dati. 8.000 metri quadri di una foresta californiana saranno allora cablati. Si usa il futuro perché il progetto è in via di realizzazione. Anzi, per la precisione, si sta pensando a due località, una a nord di San Francisco e l'altra nella Sierra Nevada. Immaginatevi quindi un bel bosco fitto nel quale però alberi, cespugli, sottobosco sono abbondantemente abitati, vogliamo dirla così, da sensori. Va bene, ma per fare che cosa? Vi domanderete giustamente a questo punto. Ebbene, la California ha un grosso problema, l'acqua. La regione cresce, consuma più energia, il suo territorio è tendenzialmente avaro d'acqua. Le piogge, per esempio, non sono affatto frequenti. Ecco allora che si presenta necessario capire cosa succede all'acqua che è presente nel suolo. Si può cominciare dai boschi. Quanta acqua assorbono le radici, naturalmente al variare delle specie arboree. Come scende giù lungo i pendii, ovvero quanta ne assorbe il terreno e quanta scorre e raggiunge i fiumi. Ma quando anche li raggiunge questi fiumi, da dove arriva, o meglio, da dove ne arriva di più e da dove meno? Il problema da risolvere non è tanto come trovarne di più d'acqua, e questa è cosa tra le più difficili. Ogni tanto si pensa di deviare fiumi, qualche esperimento lo si è fatto e con risultati molto contraddittori. Quello che invece è importante è sapere come vanno le cose in natura, e cioè, a fronte di un dato di base, l'acqua scarseggia, cosa accade alla natura che di essa ha assolutamente bisogno. E perché? E perché più si conosce, meglio ci si può preparare a fronteggiare emergenze. Siamo in chiusura di puntata. Devo dirvi, ma non devo dirvi troppo, ma vi diremo di più fra qualche tempo. Adesso non avrete capito niente, mi sembra più che comprensibile. Vi invitiamo ad andare alla home page del nostro sito www.moebiusonline.eu. Vedrete un simbolino Nano Channels che rimanda a nanotecnologie. Vi chiediamo di cliccare lì sopra e andare a compilare un questionario. È un questionario messo in circolazione dall'Unione Europea per un progetto che cerca di capire che cosa il largo pubblico sa delle nanotecnologie. Questo è il primo passo. Vi chiediamo di partecipare a questa inchiesta europea, poi dopo di nanotecnologie vi parleremo ampiamente nei prossimi tempi. Grazie a tutti, ci vediamo fra 7 giorni.